Dimes. Begins. Each day climbs a line for the half dozen lives. Questa era la sigla d'inizio di questo programma Zardis Magnetics in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, e loro, la band che abbiamo ascoltato appunto, erano i Behind Enemy Lines. Ora andiamo prima degli interventi, andiamo così all'ascolto di questa, di questo 7 pollici, questo 45 giri, questo split di queste due band, una di Milano e una da Rio de Janeiro, dal Brasile, e noi ci ascoltiamo la band italiana, come detto, della zona, sì, italiana della zona di Milano. Sono i Feed Me More, che così fa un po' ridere adesso, c'è il nome in inglese per questa band di Milano, mentre la band brasiliana si chiama semplicemente, in, proprio in lingua italiana, Catarro. Comunque noi ci ascoltiamo i Feed Me More. We'll be right back. E ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onde Furlane e di Zardins Magnetics anche da parte mia. E allora stasera parliamo di un licenziamento e di una sentenza del giudice del lavoro che riguarda questo licenziamento. Si tratta del licenziamento di un compagno, un compagno educatore impiegato in servizi educativi, nello specifico dopo scuola, per il comune di Udine, un lavoratore in appalto, che era appunto socio e lavoratore di una cooperativa sociale, la cooperativa sociale Onlus Aracon di Udine, sempre, il quale è stato licenziato lo scorso 10 febbraio, quindi un momento prima, diciamo, del lockdown causato dalla pandemia, e appunto che è stato licenziato, poi insomma per ordine diremo bene un po', ricostruiremo un po' tutta la storia. Come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione abbiamo da subito preso a cuore, sostenuto e solidarizzato con questo compagno e preso a cuore questa situazione. E chiaramente anche un licenziamento per noi è una forma di repressione. Cioè la repressione non avviene solamente attraverso il carcere, attraverso le misure, diciamo, di limitazione della libertà personale, avviene anche attraverso forme come quelle appunto del licenziamento. Tu nella società fai casino perché appunto il mondo come ti va, come va, non ti va bene, e quindi fai casino, lotti, cerchi di agire in modo da ti rivolti affinché le cose cambino. Per te ci sono appunto il carcere, oppure le denunce, oppure comunque varie forme, diciamo, di controllo sociale. Fai casino, ti rivolti, ti ribelli all'interno di un posto di lavoro, ecco che mettono in atto tutta una serie di forme di repressione graduale fino ad arrivare al colpo finale, appunto, che è il licenziamento. Inoltre il licenziamento ti priva, ti mette nelle condizioni di non avere dei mezzi di sostentamento e comunque di dover ritornare alla ricerca di mezzi di sostentamento, e questo oltre a essere una cosa, diciamo, faticosa, stressante da un punto di vista personale, fa sì anche che molte delle tue energie vadano appunto nella risoluzione di problematiche di sopravvivenza, e quindi queste energie vengono tolte alla lotta, ad azioni collettive, insomma, e quindi tolgono forza, diciamo, a tutti, non solamente al soggetto individuale, ma a tutte le persone e i compagni e le compagne che interagiscono con lui. Poi in questo caso specifico di questo compagno di cui parlo, il licenziamento è proprio stato un licenziamento esemplare, diciamo, repressivo proprio per eccellenza, in quanto appunto arriva come un ultimo atto volto a reprimere del tutto, definitivamente, diciamo, il pensiero e l'azione di un lavoratore che non piegava la testa, non ha piegato la testa, che ha messo in discussione gli ordini che gli venivano dati e che ha messo in discussione anche la gerarchia dell'organizzazione per la quale ha lavorato. E questa faccenda dell'appunto mettere in discussione ordini di lavoro e gerarchia, e quindi ruoli all'interno dell'organizzazione, è una cosa che non viene tollerata, e meno con meno viene tollerata nel cosiddetto no profit, insomma nelle cooperative sociali, che dietro una apparenza così, un vestito di tutrici della democrazia, sono in realtà delle imprese rudi e che appunto, anzi manipolatorie anche, che manipolano anche, diciamo, la coscienza dei lavoratori e delle lavoratrici che ci incappano. Ma andiamo per ordine e così ricostruiamo un attimo quello che è successo. Appunto, e lo scorso il febbraio appunto del 2019 questo compagno viene licenziato, e in quanto la cooperativa Aracon perde una parte di un appalto, e con questa prende, insomma, questa scusa e e dice che questo, sostiene che questo lavoratore era impiegato per la maggior parte in questa parte, insomma, di appalto che ha perso, e quindi lo licenzia per giustificato motivo oggettivo, che già diciamo la dicitura è aberrante, comunque esiste questa, questa dicitura. E allora, in realtà, come ho detto prima, questo compagno viene licenziato perché rompeva le scatole ai padroni dell'Aracon, rivendicava condizioni di lavoro migliori, contestava gli approcci repressivi e di annichilimento, così di contenimento dell'utenza, che metodi, approcci che vengono utilizzati nei servizi sociali, educativi alla persona in larga parte, in larga misura. Allora, questa ribellione di questo compagno, una ribellione che iniziava, insomma, un decennio fa, diciamo, e gli, questa ribellione ai diktat dei padroni dell'Aracon gli è costata in questi anni svalutazione del proprio lavoro, precarizzazione dell'incarico, riduzione drastica del monte ore settimanale, demansionamento, numerosi e uno stillicidio di provvedimenti disciplinari per atti di insubordinazione, la marginalizzazione rispetto ai colleghi e alle colleghe, attacchi personali pesanti in assemblea a soci. Allora, tutti questi li ho enumerati perché magari si sta presto a dire una persona è sotto mobbing oppure subisce soprusi, così. Però è bene anche capire cosa sono questi soprusi nel dettaglio, nel senso che sono cose pratiche, pratiche che condizionano la vita di tutti i giorni di una persona. Quindi sono cose che chi lavora, insomma, può cogliere la pesantezza di questi atti. Ecco, contro tutti questi provvedimenti il nostro compagno ha sempre fatto resistenza e opposizione. Quindi resiste, diciamo, in tutti questi anni. Per sferrare l'ultimo colpo, la dirigenza della cooperativa sociale Aracon furbescamente molla, diciamo, la tattica dell'attacco, dell'aggressione, e sceglie di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo, come dicevo prima. Quindi adducendo motivazioni economiche relative alla perdita, appunto, di un appalto. E, però, che cosa succede? Il nostro compagno non accetta questa cosa e quindi impugna sia il licenziamento, sia diciamo si oppone anche alla sua esclusione da socio della cooperativa. L'impugnazione del licenziamento proposta da questo nostro compagno ha messo in luce come la cooperativa non abbia nemmeno aspettato la sua decisione in merito all'andarsene o al rimanere. E qui apro una parentesi: quando una cooperativa perde un appalto esiste una procedura, diciamo, che si chiama clausola di salvaguardia, che prevede che volontariamente i lavoratori che diciamo lavoravano in quell'appalto possano passare all'altra cooperativa, cioè alla nuova aggiudicataria. Questo però è la clausola di salvaguardia è una, cioè implica la volontarietà, insomma uno deve voler andare con l'altra cooperativa, non è obbligato, non è un obbligo, ecco. Comunque, appunto, la cooperativa Aracon non aspetta nemmeno la decisione del compagno in merito a questo andarsene o rimanere, e prima della sua decisione procede con altre assunzioni a tempo indeterminato. Ecco, da qui questa cosa, insomma, diciamo, fa scattare un esito a favore del compagno da parte del giudice del lavoro. Allora, come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, lo scorso 19 ottobre, che era il giorno in cui c'era l'udienza che riguarda appunto l'impugnazione del licenziamento da parte di questo compagno, abbiamo organizzato un presidio davanti al tribunale, un presidio con volantinaggio e megafonaggio rivolto ai passanti, appunto per denunciare questa situazione e per sostenere questa lotta. E, ecco, dopo un mese, 30 giorni, che è il tempo massimo per il giudice per esprimersi, è arrivata la sentenza. Appunto, la sentenza dichiara la illegittimità di questo licenziamento e condanna la cooperativa sociale Aracon a riconoscere al nostro compagno un'indennità pari a 9 mensilità, poi parliamo anche di questa, dell'entità di questo riconoscimento, e nonché le spese processuali. Vale la pena anche di dire due cose su questo aspetto di questa sentenza. Insomma, beh, intanto questa cosa di aspettare proprio, cioè di esporsi, cioè di esprimersi in corner alla fine proprio dei giorni, quindi considerando anche che in questo periodo in cui i licenziamenti sono bloccati non c'è grande lavoro, insomma, nel tribunale i giudici del lavoro non hanno una mole di lavoro sconsiderata, in quanto appunto i licenziamenti sono bloccati a causa della pandemia. Comunque la sentenza arriva dopo 30 giorni. E che dire di questa sentenza? Intanto il giudice dichiara, cioè si limita, diciamo, ad applicare la legge classista, e che chiaramente fa gli interessi pienamente dei padroni, per cui dice direttamente: sì, il licenziamento è illegittimo, però non si contempla nemmeno il reintegro, in quanto la legge non prevede il reintegro nel posto di lavoro, quindi il mantenimento del posto di lavoro anziché l'indennità, diciamo, monetaria, solamente come eccezione eccezionale. La regola è l'indennità monetaria, quindi non viene, diciamo che il diritto al lavoro è un'eccezione, non è la regola. Con tutta una serie, insomma, questa sentenza contiene tutta una serie di citazioni di altre sentenze, guarda caso tutte del 2019-2020, quindi insomma tutte già in questa onda qua di distruzione, diciamo, di annientamento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. E proprio dice chiaramente questa cosa: io applico la legge prevede questo. E tra l'altro nella sentenza c'è scritto che questo lavoratore appunto lavorava da 19 anni per questa organizzazione, quindi non da un giorno. Nonostante tutte queste, insomma, riconoscimenti, diciamo, appunto viene proposta questa indennità pecuniaria, e anche abbastanza ridicola, insomma, di 9 mensilità e nient'altro. E ecco, allora, nonostante ciò si può considerare questa sentenza, diciamo, una piccola ma importante vittoria, intanto perché le cose sono emerse, sono venute fuori, c'è stato questo impugnazione coraggiosa da parte di questo compagno, e comunque crea un precedente. Diciamo, non è facile che soprattutto per le organizzazioni no profit emergano, diciamo, scontri espliciti. Di solito succedono cose dietro la schiena, diciamo, per sotto, e non si arriva mai a un dunque esplicito, quindi già questa cosa è importante. Tra l'altro è una cosa che può dare anche coraggio a altri lavoratori e ad altre lavoratrici che dovessero trovarsi in questa situazione. E quindi, insomma, la prendiamo, diciamo, per quello che è, per questo aspetto qua, la consideriamo una piccola grande vittoria. Chiaramente non abbiamo fiducia né nello Stato né nelle sue istituzioni, anzi sappiamo che Stato e padroni sono, diciamo, collusi, ma come in questo caso riteniamo che vadano anche utilizzati gli strumenti giudiziari nel momento in cui si tenta di difendersi ci si difende con le unghie e coi denti dagli attacchi subiti. Chiaramente non ci illudiamo che migliori condizioni di lavoro si ottengano dalla legalità, e infatti anche questa sentenza lo dimostra. Sappiamo che lavoratori e lavoratrici devono conquistarsele con la lotta, però insomma, comunque anche questo, sì, questa, l'esito di questa lotta, diciamo, la consideriamo positiva. Ecco, e, vabbè, intanto diciamo questo, di questa vicenda. E, ecco, io ci tengo a dire ancora due cose rispetto alla, così, all'atteggiamento di, delle lavoratrici, dei lavoratori del sociale, che sono, vivono una condizione particolare, diciamo, nel senso che da un lato sono prese da questo ruolo di fare del bene all'umanità, e quindi magari hanno anche, vivono anche questo ricatto, diciamo, di che se non fanno tutto quello che gli viene detto di fare, trasgrediscono a questa missione di fare il bene. Dall'altro lato sviluppano, anche per come vengono comunque educati attraverso l'università, ad esempio, e le scuole varie, sviluppano una abitudine all'obbedienza, a non porsi troppe domande per tirare avanti, per andare avanti con loro, così, con la loro routine, e anche sviluppano una suefazione a pratiche sociali ed educative alienanti, normalizzanti, coercitive. Diciamo che tendenzialmente gli operatori sociali si abituano facilmente a fare gli sbirri buoni, e questa qui è una cosa grave, secondo me, perché, beh, oltre ad assuefarsi anche facilmente all'autosfruttamento, questa è una cosa grave perché il lavoro sociale, quindi intendiamo il lavoro di cura, il lavoro di aiuto, dovrebbe essere, nell'ottica della convivialità, dovrebbe essere una base, diciamo, delle comunità, no? Cioè dovrebbe essere appunto lavoro anche di autocura e di auto mutuo aiuto, e quindi tutte queste scorciatoie, diciamo, non dovrebbero esistere. Cioè il discorso degli sbirri buoni dovrebbe essere messo in discussione, invece purtroppo sì, questa è una caratteristica molto sviluppata. Anche per questo la ribellione, gli scontri all'interno tra padronato, che poi non viene chiamato nemmeno così, e lavoratrici e lavoratori, avviene pochissimo tendenzialmente in queste strutture, in queste organizzazioni, appunto perché si vive una specie di melma, insomma, confusiva, e quindi non si capisce neanche qual è la propria posizione. Ecco, anche per questo, insomma, è molto importante quello che questo compagno è riuscito a fare, pagando chiaramente, come sempre succede, sulla sua pelle tutte le conseguenze, e questa conseguenza grave, che è questa del licenziamento. Oh! Stiamo ascoltando gli Infame, che è una band spagnola, da questo loro album del 2007. Abbiamo ascoltato tre brani per questa band spagnola della zona di Barcellona, e sono gli Infame. Questo era il loro album del 2007, mentre ora andiamo all'ascolto di questo vinile, un 7 pollici, ed è uno split tra due band dei Paesi Baschi, ovvero gli Ira de Decessos e gli Ammoniaco 87, che comunque entrambe le band dopo questo 7 pollici non hanno fatto uscire null'altro, anzi per questi Ammoniaco 87 che ci ascoltiamo proprio è l'unico split che hanno fatto nella loro carriera, mentre l'altra band, come ho detto, gli Ira de Decessus, erano già insomma attivi negli anni 90, mentre questo, come ho detto, è un disco uscito nel 2003. Yeah. Ecco, e dopo aver parlato quindi di questa sentenza, insomma, che dichiara illegittimo un licenziamento punitivo verso un nostro compagno, parliamo di altre sentenze. Beh, intanto accenniamo solamente, poi ci sarà modo di approfondire. E martedì 24, quindi l'altro ieri, c'è stata la sentenza del processo di appello per l'operazione Script Amanent a carico di svariate anarchiche e anarchici, e con due condanne, specificamente due condanne allucinanti, cioè Anna a 16 anni e 6 mesi, Alfredo a 20 anni, e poi tutta una serie di altre condanne. Ecco, intanto chiaramente esprimiamo piena solidarietà ai compagni in carcere, e appunto approfondiremo nelle prossimi appuntamenti queste faccende. Parliamo invece stasera, come occasione per parlare di un'ulteriore operazione anti-anarchiche e anarchici, di una sentenza della Cassazione che letteralmente, leggo da questo articoletto, manda KO il PM D'Ambruoso. Questo PM D'Ambruoso è il pubblico ministero, appunto, che ha montato, diciamo, le accuse verso 12 compagni e compagni anarchici che sono inquisiti sotto la dicitura di operazione ritrovo. E allora, vi leggo intanto che cosa dice questa sentenza della Cassazione, che poi, vabbè, aneddoto, mentre era in corso questa insomma, mentre il giorno in cui è stata emessa questa sentenza, la carovana Bialisturbo si trovava proprio davanti alla Cassazione. Vabbè, aneddoto. Allora, questa sentenza dice: non è predicabile, soltanto in ragione della comune adesione all'ideologia anarchica, un effettivo e reale contagio del gruppo investigato da parte delle idee e finalità terroristiche eventualmente sviluppatesi in altre cellule della galassia anarchica, mentre viene richiesto al giudice di merito di fornire la prova di una tale concreta contaminazione che deve portare alla gemmazione di cellule autonome aventi le caratteristiche tipiche dell'associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Questo è uno dei passaggi della motivazione con cui la Cassazione rigetta il ricorso del pubblico ministero D'Ambruoso contro la decisione del riesame di Bologna di scarcerare gli anarchici arrestati a maggio. Parliamo di maggio 2020 ed erano sette compagni e compagni arrestati in carcere. Appunto, già il riesame aveva preso questa decisione. La Cassazione ricorda inoltre che non sono state rinvenute armi, ma unicamente artifici pirotecnici, aste e bastoni impiegati per dispiegare bandiere o stendardi. L'acquisto di maschere antigas non era finalizzato al compimento di azioni violente, ma a scopi protettivi in vista di possibili azioni delle forze di polizia in occasione delle manifestazioni di piazza. Nel corso dei cortei e delle manifestazioni alle quali parteciparono gli indagati, al di là di qualche imbrattamento e danneggiamento, non vi fu mai pericolo concreto per la pubblica incolumità. In occasione dell'incendio di un impianto di vicetrasmissione diventato il fulcro della ricostruzione accusatoria, la Cassazione sposa le tesi dei giudici del riesame. C'era l'obiettivo di danneggiare la struttura letterale, tra virgolette, ritenuta espressione dell'assoggettamento alle tecnologie da parte delle istituzioni dello Stato, piuttosto che la volontà di causare un pericolo di devastazione di maggiori proporzioni. Bon, quindi questo non si può che rallegrarsi del fatto che il PM D'Ambruoso venga smentito in tutto e per tutto dalla Cassazione. Approfittiamo di questa sentenza per così ripercorrere un po' le vicende di questa, delle compagne e dei compagni di questa operazione ritrovo. E vi leggo un volantino, un testo che è stato diffuso a fine maggio del 2020. Si intitola "Sull'operazione ci riprovo". Poco dopo le 2 di notte del 13 maggio 2020 scatta a Bologna l'ennesima operazione anti-anarchica. Anche questa volta si contesta un'associazione sovversiva, articolo 270 bis. In 7 finiscono in carcere, per altri 5 scattano l'obbligo di dimora a Bologna con rientro notturno. 4 di questi hanno anche l'obbligo quotidiano di firma. Lo spazio anarchico di documentazione Il Tribolo e svariate case vengono perquisite da 200 tra carabinieri e agenti del ROS. L'inchiesta, firmata dal PM D'Ambruoso, parte a seguito dell'incendio di un ripetitore di telecomunicazioni, accompagnato dalla scritta «Spegnere le antenne e risvegliare le coscienze», solidali con gli anarchici detenuti e sorvegliati, avvenuto sui colli bolognesi nel dicembre 2018. Ma rimane abbandonata in un cassetto della Procura dal luglio 2019 fino a maggio 2020. Il perché ciò avvenga, gli inquirenti lo ammettono senza pudore. In un'epoca in cui le carceri bruciano, occorre che lo Stato si sbarazzi di chi ha sempre manifestato il proprio appoggio ai detenuti in lotta. Non solo a parole, e occorre farlo perché coi tempi che verranno è meglio mettere le mani avanti, arrestare preventivamente. Così, per il DAP, le rivolte nelle carceri, in cui solamente in Italia sono morti 14 detenuti, sono il frutto della istigazione anarco-insurrezionalista o, in alternativa, opera della mafia, ma non certo delle condizioni invivibili in cui versa chi è rinchiuso. Per i carabinieri e di loro firma carte, le mobilitazioni che hanno portato parenti e solidali sotto le carceri durante il lockdown non sarebbero altro che una strumentalizzazione anarchica volta a compiere reati, la famigerata appunto istigazione a delinquere. L'esistenza di cuori decisi a frantumare la coltre di indifferenza dietro cui, solo nel carcere bolognese della Dozza, 2 prigionieri sono morti di coronavirus, è per un servo dello Stato un'opzione incontemplabile. Non sono le ingiustizie e le disuguaglianze di una società basata sulla sopraffazione a generare lotte e ribellione, ma l'opera del proselitismo di qualche blog. Apertamente sotto accusa nell'operazione dei ROS sono le idee anti-autoritarie, la difesa delle pratiche d'attacco, l'appoggio ai prigionieri anarchici, la non dissociazione dalla violenza rivoluzionaria, il partecipare ai cortei, il redigere manifesti, lo stampare fogli murari, ma anche, paradossalmente, la volontà di evitare che un corteo di cui si è parte venga caricato, così come lo sbattersi a trovare una casa in cui dei compagni possano scontare gli arresti domiciliari, il frequentarsi o l'abitare insieme. E ancora la partecipazione a cortei in cui vengono danneggiati il bancomat di una banca proprietaria della struttura che avrebbe dovuto ospitare il CPR di Modena, nonché la fiera avversione a queste strutture. Ma c'è di più. Qualcuno avrebbe addirittura detto di preferire l'azione diretta alla mera testimonianza. In un accrocchio nel quale solo i carabinieri sanno ritrovarsi, ogni ragionamento logico è fuori luogo. È chiaro, tuttavia, l'intento di colpire le lotte e la solidarietà. Non lasciarglielo fare sta a tutte e a ciascuno. E stiamo ascoltando in questa band di Cagliari, A Fora de Arrasto, che da questo split, da questo album split, assieme alla band di Palermo e Feccia Tricolore. Eccoci di nuovo, eccomi di nuovo, siamo sempre su Zerdings Magnetics. E, allora, diamo ancora un po' di spazio a questi documenti dei compagni anarchici di Bologna, parlando di solidarietà. È sempre un documento che risale appunto a maggio, al maggio scorso, maggio 2020. Affrontare la repressione significa cercare di trasformare la merda in fiori. Le dimensioni della solidarietà ricevuta, parliamo appunto dei compagni colpiti dall'operazione repressiva Ritrovo, sono state una bella sorpresa, non solo militanti ed attivisti, ma anche molte persone che nessuno avrebbe immaginato poter prendere le difese di una banda di anarchici. In ciò hanno sicuramente avuto un peso non indifferente le amicizie, le conoscenze, gli incontri e le persone che segnano la quotidianità, la vita di tutti i giorni, insomma. Con ciò non vogliamo affermare che il radicamento sociale sia la ricetta contro la repressione, anche perché una sua precisa definizione risulta piuttosto difficile, né i percorsi di anarchici e anarchiche debbono prevederlo di necessità. Tuttavia ciò è stato, in questa specifica situazione, un dato che ci sentiamo di dover riportare. Questa solidarietà ricevuta non è casuale, così come non lo è il fatto che dopo mesi di reclusione domiciliare, paura e angherie poliziesche, qualche persona abbia pensato che questa ulteriore svolta repressiva, destinata a chi negli ultimi tempi aveva chiaramente fatto voce contraria all'andazzo securitario, fosse davvero troppo. I vecchi rapporti sociali sono mutati in peggio per gli sfruttati e devono essere repentinamente normalizzati, forse c'è chi non se l'è sentita di abbassare la testa, anche solo di fronte alle affermazioni inerenti la strategica valenza preventiva, come se i propri amici e conoscenti fossero un virus da debellare, gente scomoda di cui sbarazzarsi a prescindere. Ad essere sinceri, però, va rilevato un fatto di cui siamo consapevoli e su cui è necessario riflettere, per quel che sarà il futuro. La debolezza dell'ipotesi accusatoria è stata sicuramente un fattore importante di mobilitazione della solidarietà, soprattutto da parte di persone lontane dalle lotte. Essa ha sicuramente contribuito a far nascere l'idea di una ingiustizia da regime che andava compiendosi. La situazione contingente ha fatto gioco, lo riconosciamo. Sappiamo pure però che la solidarietà deve essere rivoluzionaria, sempre a fianco di chi lotta contro lo Stato e i padroni e non condizionata dalle accuse mosse. Dobbiamo avere l'onestà di leggere i contesti, ma pure la coerenza di rimanere fedeli alle nostre convinzioni anche nei momenti più duri, cercando di dimostrare una solidarietà forte e decisa anche quando la repressione colpisce più forte. Proprio per questo non ci siamo mai permessi di parlare di montature, né mai si è scelto, come giusto che fosse, un discorso innocentista, anche di fronte all'allargamento della solidarietà, cercando di continuare a portare discorsi radicali a più orecchie possibili. Spegnere le antenne, risvegliare le coscienze, così si apriva il corteo del 30 maggio, una dichiarazione di come l'azione diretta al sabotaggio e le pratiche di attacco a strutture e servi di questo sistema siano giuste. La prima risposta di fronte a tutto questo è stata quella di tornare nelle strade come prima, più di prima, nonostante la paura e i divieti, per esprimere ciò che per noi è solidarietà, le pratiche. La repressione, quando sequestra compagni e compagne alle lotte, ha per scopo il limitarci materialmente, togliendoci forze e spaventandoci. Bisogna essere coscienti che i nostri percorsi prevedono la possibilità che lo Stato, prima o poi, bussi alle nostre porte. Bisogna prepararsi all'eventualità che la repressione arrivi e in quel momento mantenere la lucidità per non farsi affossare e, sarà banale, ma lo stesso lo diciamo, rispondere rilanciando le lotte per non dichiarare la resa. Proprio quando è la solidarietà ad essere attaccata, come in questo caso, e proprio quando le sue reti sono messe in discussione, occorre fare della repressione condizione e opportunità di rafforzamento e rilancio. Nella difficoltà comune essa può divenire opportunità e condizione per conoscersi, capirsi e organizzarsi meglio, rafforzarsi e rendere la solidarietà un'arma. Il periodo che stiamo vivendo dimostra che lo Stato ha imboccato una strada chiara e significativa. Abbiamo ben compreso che i prossimi mesi e anni saranno delicati e tesi. Più consapevoli e più forti di prima, ci ritroveremo nelle strade. E dite, che cosa sareste voi senza Dio, senza re, senza padroni, senza ceppi, senza lacrime? Il finimondo. Anarchici e anarchiche di Bologna. Stiamo ascoltando questa band di Modena, del risalente, insomma, la nascita di questa band del metà anni 80 sono gli Infezione, e questo è il loro album uscito nell'89, Chiediti il perché. Imposti di supremazia nel lavoro, nella scuola, per la strada, a subire quest'ordine sociale gestito da loro e proprio per questo nel loro solo interesse. Non dobbiamo rimanere strumento d'arrampicazione sociale, dissenso nei loro confronti. La loro forza è nell'oscurantismo di Stato, infatti ogni processo di formazione di attività razionale si compone delle fasi in sequenza di conoscenza, critica e proposizione. E oggi ti impediscono di conoscere. Chiediti il perché. Erano gli Infezione da Modena, band che si era formata nell'85, questo era il loro album, anzi il secondo loro album, Chiediti il perché, del 1989. E ora andiamo a questa band di Palermo che ho menzionato prima, dallo split assieme ai Sardi, anzi Cagliaritani, a Fora di Arrasto, e ci ascoltiamo questi palermitani, Feccia Tricolore. We'll be right back. E quasi in conclusione di trasmissione vi propongo un'ultima riflessione in occasione della giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, appunto che era ieri, no, il 25 di novembre. Le compagne della coordinamenta femminista e lesbica di Roma hanno scritto questo documento che si intitola «Il lockdown è discriminante di genere e di classe». E ve ne leggo un pezzetto. «Il lockdown, il confinamento che viviamo sulla nostra pelle, è violenza. È violenza il terrore nel quale ci fanno vivere. Sono violenza il senso di colpa e lo stigma che vengono rovesciati addosso a chi esce dagli schemi di comportamento previsti. È violenza la completa instabilità e l'abilità a cui le nostre esistenze sono esposte di fronte non alla malattia, ma al vuoto di futuro che ci lasciano. È violenza imporre lockdown, consapevoli che molte non ce la faranno, e non a causa del virus, ma delle condizioni di vita a cui ci hanno ridotto ben prima del suo arrivo. È violenza la pretesa di fermare tutto, tutto, tutto quello che decidono volta per volta a seconda di quello che fa loro comodo, in nome della difesa da un pericolo che viene presentato come più terribile di ogni altra cosa, ma che in realtà è considerato così preponderante al preciso scopo di imporre un nuovo ordine di priorità. Le esigenze calcolanti e mortifere del capitale contro i bisogni vitalistici delle persone. Durante il primo lockdown, istituito questa primavera, ci siamo dette «non torneremo alla normalità, perché la normalità è il problema. Ora è necessario difendere questa nostra capacità di analisi politica, altrimenti ci ritroveremo a sostenere, consapevolmente o meno, i diktat del potere, contrabbandati come scelte inderogabili». Quello stesso potere che oggi glorifica gli eroi di turno che si stanno sacrificando per il paese e che domani, a emergenza finita, non solo dimenticherà, ma licenzierà e butterà in mezzo ad una strada. Chiunque non si assoggetti volontariamente e apra al pensiero critico viene tacciato di responsabilità, ma noi conosciamo benissimo la differenza tra responsabilità e obbedienza. Come femministe abbiamo l'obbligo di ricordare che tutto questo si chiama ancora e sempre violenza di Stato, di quell'ordinamento istituzionale oramai ridotto a mera meccanica repressiva, di quello Stato paternalista che si presenta come detentore del giusto e del bene. Le irresponsabili non siamo certo noi che vogliamo la luna, perché noi sappiamo chi sta da una parte e chi dall'altra della barricata. Sappiamo smascherare il nemico e creare solidarietà tra chi si riconosce nello sfruttamento e nell'oppressione. Il lockdown, in tutte le sue forme, è violenza, è una guerra alla sopravvivenza, è darwinismo sociale, applicato, è discriminante di genere e di classe. Coordinamenta femminista e lesbica Roma. Everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, ever Bene, siamo arrivate quasi alla fine di Zertins Magnetics. Ne approfitto per darvi i contatti. Allora, c'è una mail di contatto che è liberetutti@autistiche.org. Appunto, è la mail di contatto dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. E poi, se si vuole scrivere, e specificamente questo indirizzo è rivolto appunto alle persone che sono private della libertà e che quindi non possono scrivere mail, sperando sempre che qualcuno ci ascolti, e salutiamo naturalmente tutte le persone che si trovano in questa condizione. E potete scrivere a Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice postale 34 121. Ecco, questi erano i nostri contatti. Prima di salutarvi e di passare la parola in regia per il finale, così approfitto per salutare, dopo un bel po' di tempo, Cabu, dovunque lui sia, e sperando che prima o poi possa ascoltarci. Ciao Cabu! Ciao. Sfumiamo questo brano, per così possiamo ascoltare quello successivo. Ricordo che Zertins Magnetics programma qui in diretta radiofonica dagli studi di radio Onde Furlane ogni giovedì dalle ore 20:15 circa alle 21:30, anche un po' prima delle 20:15 comunque. Come detto, ogni giovedì in diretta. La band che ci stiamo ascoltando e che ascolteremo anche tra un attimo, il brano successivo, sono gli Yonu, e questo è il loro album Final Explosion del 2012, ed è una band austriaca. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. I can feel I can't give up. No.